quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E buonasera, buonasera a tutti. Rieccoci con i colori dell'anima. È un po' che non ci sentiamo. Stasera siamo tornati Anna Maria, Alessandro, Rosanna e poi buonasera. Abbiamo anche una sorpresa. Wow! Sì, sì, questa sera ci siamo portati un ospite. Un ospite internazionale. Un ospite internazionale, esatto. Buonasera, mi chiamo Inigo. Allora, puoi ridire il tuo nome perché sono certa che non tutti avranno sentito bene. Ecco. Sentami, sì. Mm-hmm, va bene. Allora, bene Anna Maria, grazie che hai portato... quest'ospite e ci fa piacere naturalmente avere delle persone esterne che vengono un po' così a chiacchierare con noi, poi nel corso della trasmissione ti faremo delle domande. Sei mai stato in una radio? Mai, ecco, quindi è la prima volta, Radio Alma è la tua prima esperienza. Dopo questa è la prima e l'ultima. Mi sembra di sì. Ma magari anche no, non lo sappiamo, secondo me uscirai da qui folgorato, nel vero senso della parola, visto gli effetti che ci fa. Allora, Inigo e Itagnolo, parla Itagnolo, è spagnolo, va bene, e questo mi dà anche l'occasione per ricordare che Radio Alma è la vostra radio mediterranea di Bruxelles, che quindi trasmette in italiano, spagnolo, francese, greco e anche portoghese. Ebbene sì, il Portogallo non è sul Mediterraneo, però insomma anche il portoghese è considerata ovviamente una lingua mediterranea. Quindi ci fa molto piacere che invece di andare con i nostri colleghi spagnoli tu sia venuto con noi. E perché grazie. Sono arrivata prima io. Sei arrivata prima tu. L'ho acchiappato, ho detto ecco, intanto brava. Vieni, poi se proprio ci vuoi tradire con il gruppo spagnolo, pazienza. Allora, Anna Maria, di cosa vogliamo parlare oggi? Dici. Perché mi guardi così? Ma allora, intanto mi dicevo che un argomento un po' soft di tanto in tanto ci stava bene e poi vi dico anche come mi è venuta l'idea. Pensavo di parlare di birra. Mm-hmm, d'accordo. Ecco, siamo nel paese per eccellenza che produce birra. Non so voi, ma io quando vado a bere una birra, mi dico andiamo a bere una birra, ok. E mi capita questo menù e io non so mai cosa devo scegliere. E scegli sempre la stessa, va a finire. No, in realtà no, chiedo un po', però poi in realtà mi piacciono le birre scure perché insomma... Le scure o le brune? Ecco, bella, già mi fai una domanda difficile a cui non so rispondere. A me piacciono le brune, per esempio, forse perché sono un po' dolciastre, non so, però mi piacciono particolarmente, ma mi piacciono tutte. Ecco, e quindi, no, perché no? Perché non parlare di birra? Certo, non abbiamo mai parlato, certo. Parliamo di ricette, parliamo delle cose italiane, parliamo di tutto, di tante cose. Però la birra sì, che... Sì, a questo proposito, ma questo poi lo sveleremo più avanti nel corso della trasmissione, avevo pensato di dare una ricetta di carnevale. In realtà poi ho abbandonato questa idea e sono passata ad una ricetta con la birra. Visto che parliamo di birra, ho pensato che fosse più in tema. Ottima idea, vedi? Mm-hmm. Abbiamo avuto l'input. Sì, infatti. E Alessandro, a te piace la birra? Certo, preferisco la birra al vino io. Addirittura? Sì, sono nel posto ideale io. Allora qui sei. A me il vino mette un po' sonnolenza, quindi preferisco bere birra. E la birra no? E no, perché è più leggera, un po' più fresca. La cosiddetta pizza e birra, come si chiama? Ci sono dei binomi che non sono inscindibili, tipo pizza e birra, pizza e coca, cioè non è che puoi fare pizza e acqua minerale, non va anche bene. Anche no, in effetti no. Oppure tipo fai il pollo, che ti mangi col pollo. Cioè, non è che ti bevi, no. Sì, puoi anche bere vino rosso, ma è pollo, birra. La birra, hai ragione, non ci avevo mai pensato, però effettivamente sì, col pollo è meglio la birra. Ci sono anche dei ristoranti che abbinano ogni portata la birra, come si fa col vino. Certo. Vero, vero. Dei ristoranti tipici qui a Bruxelles, almeno che allora conosco. Adesso vi dico da che cosa mi è venuta l'idea. Ecco. Allora, la scorsa settimana sono andata per caso alla fiera ad Anversa delle vacanze, non sapevo neanche che esistesse una fiera delle vacanze, dove ho incontrato dei belgi che vivono nelle Marche, figuratevi. E nelle Marche... Ma perché? Perché si sta bene nelle Marche. Pensa, hanno preferito le Marche a questo ridente paese. Col sole, eccetera. E quindi... E questo signore mi ha detto, ti faccio assaggiare una cosa. E che mi fai assaggiare? Ti faccio assaggiare una birra aromatizzata al verdicchio di Matelica. Che è un vino delle due parti. Che è un vino delle mie parti. Una birra aromatizzata al vino, è incredibile. Sì. Me ne ha fatto assaggiare una aromatizzata al vino bianco e una aromatizzata al vino rosso. E da lì mi è venuta l'idea. Uh-huh. E facciamo questa scissione birra e vino, come pizza e fichi. Se posso dire. Per me la birra non è una cosa da bere, è un atto sociale. Uh-huh. E io mi metto normalmente molto nervioso quando mi dicono, io voglio una birra, che birra? Uh-huh. Mi ne frega, è una birra. Prendo una birra perché fa caldo e voglio qualcosa da fresca, voglio una birra per un atto sociale, e si come il gin tonic. Sì. Un gin tonic, ho paura di chiedere un gin tonic adesso. Perché hai paura? Che il gin? Ah, devi scegliere anche il gin. Ah, non sapevo. Sembra di sì. Sì, perché questo è diventato una moda adesso. Allora devi scegliere la tonica che va con quello gin. E con la birra è più o meno lo stesso. Una birra è una cosa sociale. Prendere qualcosa. E noi siamo stressati. E mi stresso quando mi chiedono che birra voglio. La birra è un atto sociale. Per me non va più lontano da... Però posso capire che per gli altri... Sì, però se uno va in un bar, diciamo... e non ha preferenze, può sempre dire la birra alla spina, e allora lì quello che qui c'è... ti complicano anche questo, però. Sì, però se tu, di solito hanno una bionda alla spina, per esempio, poi possono avere la bianca, la bruna, ma che ne so, possono avere quella, le ciliegie, però di bionda di solito ce n'è una basic, diciamo. Sì. Ecco, la prossima volta che mi chiedono che birra vuoi, una basic, rispondere, mi piace questa cosa, basic. No, tu vai lì e chiedi il solito. Sì, però se è la prima volta che vado lì, solito. Come faceva Humphrey Bogart, dai, su. Facciamo così, facciamo uno stacco musicale e poi ci ripensiamo. Anzi, pensiamoci tutti perché si dice birra e perché si dice, come si dice birra in spagnolo? Cerveza. Ecco, e perché si chiama cerveza, eh? Ed eccoci tornati in trasmissione dopo i vita di Lorenzo Giovanotti. Tornati in trasmissione con i colori dell'anima, e visto che questa è la prima trasmissione dell'anno, buon anno! Poi siamo ancora a gennaio, lo possiamo dire, dai. Sì. È vero. Ma solo a Bruxelles si può dire? Ah, solo a Bruxelles? Perché solo a Bruxelles? In Italia no? Ma no, dai. Che fai, buon anno a 29 dicembre? Sì, no. Dai, ci mancano ancora più di 11 mesi. Alla fine dell'anno abbiamo un'autonomia di 2 giorni ancora. Feliz Año Nuevo per gli spagnoli che ci sentono. Giusto. Allora, intanto volevo dire una cosa. Volevo salutare un'amica che è venuta anche qui in radio una volta, e siccome non sta bene, volevamo augurarle di rimettersi in fretta, e poi le mandiamo un bacione grosso. Annalisa, rimettiti in fretta, perché la mattina il caffè ci manchi, insomma, devi tornare. Ma tanto. Ciao Annalisa. Allora, birra. Torniamo alla birra? Facciamo il momento super quark del tipo. Sì, spieghiamo da che cosa viene il nome. Dai. Vediamo se lo sai. No, non lo sapevo ovviamente. Dai, non leggerlo. Dai. No. Ma un minimo di latino non l'hai fatto, su. Sì, ma troppo tempo fa. E poi non fare lo spiritoso, tu lo sapevi? Io non è che faccio lo spiritoso, io sono spiritoso. Ah, c'è una bella differenza in effetti. Allora, l'origine del nome. Allora, si pensa che beer provenga dal verbo latino bibere, cioè bere. La forma in antico inglese beer è scomparsa subito dopo la conquista romana dell'Inghilterra, in risposta all'introduzione del luppolo, che non sarà ampiamente utilizzato per altri 200 anni. E il termine è rientrato a far parte della lingua inglese solamente secoli dopo, riferendosi esclusivamente alle bevande di malto con luppolo. Nei vari dialetti dello spagnolo e del portoghese la bevanda viene chiamata cerveza, è giusto? No, fermi. La pronuncia giusta. Cerveza. Cerveza. Oppure serve... No, questo è portoghese. Ah, sì? Cerveja. Va bene. O con un termine derivato da essa, dal latino cerevisia. La maggior parte delle lingue degli altri paesi dell'Europa occidentale e anche alcune dell'Europa dell'Est utilizzano la forma simile all'inglese beer. E quindi ora più o meno sappiamo che viene dal verbo bibere. Mm-hmm. Hai visto? Impariamo delle cose, eh? Sulla birra. Infatti, ma grazie a Radio Alma impariamo un sacco di cose, sì, vero? Ci sentiamo più istruiti grazie a Radio Alma. Ogni giorno si deve imparare una cosa nuova. Certo, noi impariamo una volta al mese però, non ogni giorno. E poi scordiamo il giorno dopo. Vabbè, Alessandro, non puntualizzare sempre, per favore. Ah, io no. Ma quindi il Saccharomyces cerevisiae l'abbiamo detta? Mi sono distratto un attimo. Ma dove sei? Ah, non stavo scegliendo la canzone per dopo. No, abbiamo parlato solo dell'origine del nome. No, soltanto dell'origine del nome. Eh no, perché io gliel'ho detto apposta, perché cerveza viene da... Saccharomyces cerevisiae, che è il lievito che serve per fare una birra, anche una. Quello? Oh, hai capito? Eh beh, questo non ce l'avevo scritto, perché non l'hai detto prima? Perché stavo scegliendo la canzone, adesso te l'ho detto adesso. Vedi che ogni tanto gli studi... Scegliene un'altra di canzone. Sorprese. Vedi che ogni tanto gli studi che uno fa nella vita possono servire? Assolutamente sì, ne sono convinta. Quindi... Allora, ma... Volevo anche, vabbè, poi appunto Anna Maria ci parlerai come è fatta la birra, eccetera, ma volevo anche, ovviamente, parliamo di una bevanda alcolica e quindi dobbiamo ricordare che bisogna fare un uso moderato delle bevande alcoliche, perché ogni volta che si parla di prodotti, diciamo, che possono causare problemi di salute, e sappiamo che appunto in questo momento l'alcol è particolarmente così osservato per l'uso che esagerato che viene fatto, soprattutto tra gli adolescenti. Quindi dobbiamo anche dire che la birra va benissimo, però parliamo sempre di consumo moderato, perché solo così effettivamente la birra fa bene, tra l'altro. Sì, ha un sacco di componenti che fanno benissimo, che era addirittura, nei tempi antichi era addirittura considerata come una bevanda medicinale, benefica. Magari sicuramente il tasso alcolico era inferiore, addirittura la davano persino ai neonati. Quindi queste sono tutte cose che ho imparato qui per qui. Qui in Belgio la davano a scuola. A scuola? Addirittura. Immensa. Avevano una specie di bevanda leggermente alcolizzata che era molto simile alla birra, che poi per ovvie ragioni dopo gli anni 50 hanno smesso di dare, ma era quella che davano al posto dell'acqua. Beh, sicuramente la birra, con il processo di fermentazione, di bollitura, eccetera, l'acqua viene disinfettata, per cui sicuramente è ma infatti è uno bevanda... come tante altre cose sono nate perché l'acqua, o comunque quella cosa che tu devi bere per idratarti e per vivere, non era poi microbiologicamente pura, perché era, esatto, veniva da... era sporca, mettiamola così. Quindi non era depurata. Esatto, che... e quindi hanno cercato in tutti i modi di trasformarla in qualcosa del resto. E la fermentazione in questo caso è un processo, insomma, enzimatico, chimico, con tante altre cose, ma che ti dà un prodotto che alla fine è microbiologicamente stabile e quindi non ti dà problemi di salute. Perché mi guardi, Alessandro, fisso fisso? Ah no, scusa, perché c'è un microfono, adesso lo sposto, posso guardare anche di qua. Lui no, lui no, perché c'è il microfono davanti, però non si vede. Comunque, questo programma è a consumire senza moderazione. Cioè. Esatto. Questo programma è da ascoltare con moderazione. No, senza moderazione. Tanto abbiamo soltanto un'ora, più di lì non possiamo andare. Beh, ma poi... quando riuscirò a mettere la trasmissione sul nostro blog, se potrà riascoltare una, due, tre, tante volte. Ecco. Mi sembra che c'era adesso una discussione sopra la birra e anche il vino, che non è considerato più come una bevanda, ma come cibo. No, è stato sempre considerato così. Cioè, le bevande sono considerate come parte dell'alimentazione e quindi come cibo, in effetti. E invece questa campagna che si sta facendo, ma ovviamente, diciamo, è una campagna che ha delle motivazioni, cioè di fronte all'aumento dell'alcolismo e soprattutto appunto nei giovani, si sta cercando di togliere le bevande dall'alimentazione, quindi dal cibo, ma di quasi di considerarle le bevande alcoliche come, come la droga, che mi sembra veramente un po' esagerato, perché e comunque si prende una direzione che poi ovviamente va verso, verso l'eccesso, e quindi di dire no, non si consuma niente, perché poi questo tipo di atteggiamento a un certo punto dirà, siccome come la droga, anche le bevande alcoliche devono essere completamente eliminate, che mi sembra effettivamente un ragionamento sbagliato. Cioè, per esempio, sappiamo che le sigarette fanno male, non è che se uno fuma 3 sigarette non gli succede niente, anche 3 sigarette fanno male, ma la stessa cosa non possiamo paragonare le bevande alcoliche alle sigarette, è veramente né tantomeno le possiamo paragonare alle droghe di qualsiasi tipo, quindi... No, assolutamente, diciamo, anche perché la bevanda alcolica, leggermente alcolica, sì, però, diciamo, esiste da che esiste. C'è una deriva un po' negativa, sì, un atteggiamento soprattutto di queste associazioni molto così contro l'alcol, che stanno facendo veramente delle battaglie proprio contro anche ovviamente i produttori. Però appunto adesso... Ovviamente chi parla di alcol, e quindi di birra, ma anche di vino, perché poi se parliamo di bevande alcoliche fanno bene, ma devono avere un tasso alcolico relativamente basso, perché già parlare dei superalcolici è ancora un'altra cosa, è un po' diverso. Però se parliamo di bevande che hanno un tasso alcolico relativamente basso, tra virgolette, che appunto sono dai 12 ai 14-15 gradi del vino e dai 3-4 fino più o meno ai 10 gradi della birra, in questo caso effettivamente si è visto che un consumo moderato, cioè un bicchiere di queste bevande al giorno, fa bene e ovviamente è l'eccesso poi che causa danni all'organismo, però il bicchiere singolo fa bene. Va bene, certo. Ovviamente non ci si deve ubriacare, questo è chiaro. Stiamo parlando del bicchiere. Il bicchiere. Non abbiamo neanche detto quanto grande questo bicchiere. Una funzione sociale. No, vabbè. Non abbiamo detto la capienza del bicchiere. Quello che cerco, che trovo interessante sulla birra adesso, è tutti questi giovani che fanno la birra artigianale. Sì, è vero, è vero. E non so se è cultura, se è moda. Uh-huh. Però mi sembra curioso, almeno è curioso, hai ragione, sì. Di quelli che lo fanno da loro e... Non so se ti ricordi, Anna Maria, anche dei nostri colleghi l'avevano fatto. Sì, sì, sì, sì, sì. Credo che continuino a farlo. Continuano? Sì, sì. Dunque, ancora più scelta. Io voglio una birra basica. Mm-hmm. Basica. Artigianale. Artigianale. E qui, no, vabbè, te la puoi fare tu in casa. Ti fai la tua birra. E vendono... In kit. In kit. Uh-huh. Sì, sì. Via, domani facciamo la birra fatta a casa. Certo. Io ce l'ho, se vuoi possiamo fare, non dovete pigiare l'uva coi piedi, ma si può fare. Che cosa c'hai, scusa? E ho il fermentatore, il lievito, devo prendere tanto l'acqua, le bottiglie e poi sei a posto. Però, hai capito? Domani tutti a casa. Ma è una roba semplice proprio, eh? Uh-huh. Cioè, come fare il vino, però alla fine la qualità di quello che viene fuori lo puoi fare anche tu. Cioè, ti uh-huh. prendi l'uva, te la schiacci, te la pigi. Uh-huh. Uh-huh. C'è qualcuno che telefona. Va bene. Che emozione, rispondi. Allora, pronto? Hello? Oui. Hanno sbagliato il numero. Pronto? Pronto, chi parla? Ah, buonasera. Pronto, buonasera. Mi dica chi è? Allora, nome... Sono Maite. È Maite, una nostra amica. Ah, ciao, Maite. Come ciao, state? Maite. Tutto bene? Bene, grazie. Benissimo. Stiamo parlando di birra questa sera, quindi adesso ce ne vediamo, male, un bicchiere alla tua salute. Divertitevi e vi do un bacione a tutti e tre. Grazie. Ciao, buonasera. Ciao Maite. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, insomma, qualcuno ci ascolta. Oh, dopo 8 mesi di trasmissione abbiamo ricevuto 2 telefonate dal vivo, eh? Ma siamo... vieni, facciamo un picco qua. Dai, facciamo così, facciamo questa botta di vita. Canzone, questo è il nuovo che avanza, ascoltatela bene. Okay. Voi qui, voi fuori, questo è il nuovo che avanza, ok? Allora, torniamo ai nostri grandi discorsi, al nostro momento Super Quark, eh? E torniamo ai colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, birra. Ma si può sapere com'è fatta sta birra? Allora, io ho trovato qualche informazione da una fonte proprio precisissima, cioè un sito internet. Certo. Vi dico anche il sito, si chiama www.alimentipedia.it. Bene. Chiedetemi altro. Allora, la birra di che cosa è fatta? Ovviamente di acqua, che quindi è composta dall'85 al 92% di acqua. E se la qualità dell'acqua, il tipo di acqua, può determinare ovviamente come la qualità della birra, perciò secondo le sostanze minerali che ci sono nell'acqua la birra può avere un gusto differente. Poi ovviamente il lievito. Allora, qui dicono che la fermentazione della birra avviene grazie al lievito, è lui che produce nella sua attività alcol ed anidride carbonica. Attualmente esistono due grandi ceppi di lievito. Alessandro, aiutami. Il Saccharomyces cerevisiae, ce l'ho fatta? E il Saccharomyces carlsbergensis. Adesso hai capito perché c'è sta la Gasberg. Io non lo sapevo. È sallo. È sappilo. Sallo. Dunque, il primo, ecco, questo ci arrivo anch'io, il primo è noto come lievito di birra, e qui ci arrivo, è usato anche per la panificazione, viene usato per le birre tradizionali ad alta fermentazione, invece l'altro è largamente praticato per i prodotti a bassa fermentazione e attualmente assai più diffusi. E il lievito di birra viene usato anche per? La pizza! No, per tingere i capelli di biondo, la nonna, non lo faceva? La mia no. Mai sentito. Facevi una pappetta. Noi al nord facevamo così. Voi al nord le tinte non ce le avevate. No. Si faceva una pappetta con il lievito e l'acqua e poi ti tingevi i capelli, diventavano un po' più biondi. A te risulta che sì. No, però noi c'è un complemento nutrizionale in Spagna, levadura di cerveza, sì. Il lievito di birra, che è un complemento alimentare. Sì, e serve a cosa? Non lo so. Io mi ricordo che era mia nonna che ci dava, dopo il pranzo, lievito di birra, una cucchiaia. Ecco, io non lo usavo. Dopo il pranzo? Sì. Forse per aiutare la digestione. Quando ero adolescente ovviamente avevo i brufoli, pare che si prendeva a digiuno, immagina, un pezzetto di lievito di birra a digiuno per i brufoli. Buonissimo. Per aiutare a rendere la pelle più bella. Ma insomma, era una crudeltà. Certo che ne inventiamo di tutti i colori, però. Un bel bicchiere di birra secondo me era meglio. Anch'io penso. Vabbè. Va bene, quindi l'acqua, lievito, l'orzo. Dunque, le qualità di orzo che vengono usate per la birra sono solo tre. Orzo distico, tetrastico o esastico. Dico bene? E cosa vuol dire? Non lo sappiamo. Ogni spiga d'orzo è formata da una serie di nodi, ciascuna delle quali sostiene sei fiori potenziali. Si dice quindi orzo distico, tetrastico o esastico a seconda che due, quattro o sei fiori vengano resi fertili, sviluppando in pari numero i chicchi sulle rachidi. L'orzo distico è da preferirsi. Non so perché. Adesso possiamo dirlo in mondovisione, voi ci credete o no, ma hai fatto un esame su questa roba qua. Cioè questa era la domanda dell'esame. Non ci credo. Qual è l'orzo leggere a me tutta sta roba. Sì. La domanda era qual è l'orzo migliore per fare la birra? Quello distico primaverile. Hai capito. Roba brutta. Qui svegliamo i segreti. Alessandro, migliore perché? Per il gusto o per che cosa? Per il gusto, ma anche il tipo di fermentazione. Ho capito. Scusa, allora spiegacelo tu il malto. Cos'è il malto? È l'o? L'o? Faccio come sono Sofia. È l'or... Zogerminato. E dicela tu. No, leggi tu che è più complicatissima per me. No, ma io all'università l'ho fatta da tanti anni fa, no, va bene. Qui dice il malto è la cariosside. Sì. Cos'è la cariosside? Quello che sta fuori. Ecco. Com'è la cariosside, che ne so, del riso, del mais, quello che sta fuori. Quello che sta fuori, perché dice che in questo termine si indica un frutto secco che è giunto a completa maturazione, ma non si apre spontaneamente per far uscire il seme. Confermi? Esatto, esatto. Ma infatti, cosa si fa per far uscire il seme? Ci metti un po' d'acqua. Ah, ecco. E poi germina. Esattamente. E fa il malto. Ecco, hai visto? Esatto. Ma scusa, tutta sta fatica me l'hai fatta fare per che cosa? Che lo sapevi? Ah, per divertirmi. però tu, facciamo una cosa un po' tecnica. Allora, tu mi fai una bevanda con l'acqua. Sì. Mi fai fermentare sta roba. Sì. Me lo fai aprire sto... Questo qui è come una gemma, come una specie, sì, un po' di riso, un po' di grano, mm-hmm. Non ti viene in mente qualcosa che contrasta col sapore della birra? Cioè, tu ci metti questa roba qua, sì, ci metti un po' di zucchero, ci metti, sì, un po' di acqua e lo fai fermentare. Sì. E lo mescoli, mettiamola così. Quindi tu cosa ti aspetti di avere se tu dovessi bere questa roba qua? No, io non la berrei questa roba qua. Ma immagina, chiudi gli occhi. Eh? Qualcosa dolce, no? Ecco, vedi che lui, vedi che lui è intelligente. Invece la birra com'è? Amara. Ecco, allora cosa manca? Cosa manca allora? Cosa manca per renderla amara la birra? Cosa manca? Come cosa manca? Dillo in una lingua che conosci, che non sia anche l'italiano, va bene comunque. Manca il luppolo. Oh, eccolo là. Eccolo. Ce l'ho qui il luppolo. Abbiamo fatto, vedi? Abbiamo cambiato la pagina. Adesso, non avevo girato pagina, perdono. Adesso abbiamo capito perché ci sta il luppolo. Uh-huh. Cioè, non solo per renderla amara così è più vivibile, ma anche perché... Da... Esatto. Uh-huh. E il luppolo? No, il luppolo è quello che sta nella Valle dei Puffi. Questo già abbiamo il luppolo. È una pianta rampicante, sì, c'è scritto. Vedi, potresti metterci dentro l'edera, che fa bene lo stesso. E fai la birra all'edera. Se vi affidate a me potrei metterci qualsiasi cosa io nella birra. No, però questo è interessante, perché si vive... A me personalmente non mi piace la birra perché è amara. E allora, perché la birra è così comune, essendo amara? Mm. Puoi dire, voglio dire, per me non è gustoso... Troppo amaro? Sì. Ma a me, vabbè, adesso... È curioso almeno, eh? Sì, però mi dà un senso di dissetare questo, il fatto che sia amara. Una bevanda dolce non mi disseterebbe, cioè avrei voglia ancora di bere dopo aver bevuto una bevanda dolce. Invece è come se la birra mi dicesse, ok, stop, ti sei dissetata, cioè questo amaro lo associo al... Sì, al... Sono sazia, diciamo... Alla sensazione di... Sì, di sazietà. Comunque, è buono. Vabbè. Quindi sì, il lupolo serve per aromatizzare. E quindi tutte le birre hanno il lupolo. Probabilmente anche la birra bruna, che non è molto... Chi più chi meno, sì. Uh-huh, poi la birra bruna è perché invece lì c'è il malto è tostato. E quindi è quello che dà il sapore scuro e anche il colore scuro e il sapore di altro. Uh-huh. Ecco, ma tu che vuoi fare la birra, quindi ce l'hai il luppolo a casa, fammi capire. Certo, no, avevo preparato, sai come si chiama il mio preparato? No. Ambiorix. E te scherzi, si chiama così? Così proprio? Certo. Vabbè, come vuoi chiamarlo? Una roba che compri qua si chiama Panoramix, Ambiorix o Leopold, voglio dire. Poi di là di nomi non vanno. Certo. C'è sempre un... Invece, lo vogliamo dire? Dalla brasserie Leopold, mm-hmm, c'era una famosissima brasserie, che è quella che è iniziata a fare la Stella Artois qua a Bruxelles, che stava in centro. Mm-hmm. Dove? Dove adesso c'è il Parlamento Europeo. Esattamente lì. Ah, quindi non c'è più questa birreria? No, poi l'hanno spostata fuori, poi è stata comprata da Heineken in tempi non sospetti, okay, ma si chiamava proprio... E se tu guardi nel retro, uh-huh, non nella parte al tiro spinelli, quella che sta dietro, uh-huh, c'è ancora un pezzo di una costruzione che diceva Brasserie Leopold. Oh. Ma Alessandro ci va a scoprire sempre un sacco di cose, uh-huh, sulla città di Bruxelles. L'altra volta era qualcosa su Malbec. Oggi sul pur essendo venuto da meno tempo di noi, ma pur essendo del nord, come direbbe qualcuno, le cose le sa. Pur essendo del nord, e diciamolo infatti, e diciamocelo. E perché pensiamo che la birra è proprio del Belgio, la Germania, sei nata nel Mediterraneo, sei proprio cultura mediterranea? È vero, infatti non è nata nel nord Europa la birra. La birra addirittura si ritrovano tracce dai Sumeri, wow, addirittura. E adesso ve lo dico anche, se lo trovo. Comunque sì, ha circa 5.000 anni la birra, quindi ha molti anni. Qua. Sì, allora, dunque, si hanno testimonianze di produzione della birra addirittura presso i Sumeri, proprio in Mesopotamia. Inoltre pare che sia nata la professione di birraio e testimonianze riportano che parte della retribuzione dei lavori veniva corrisposta in birra. Due erano le principali tipologie prodotte dalle case della birra, una birra d'orzo chiamata sicaru, pane liquido, e un'altra di farro detta curunnu. Addirittura esiste una legge che risale al codice Hammurabi del 1728-1686 a.C. che condannava a morte chi non rispettava i criteri di fabbricazione indicati, quindi chi annacquava la birra, per esempio, e chi apriva un locale di vendita senza autorizzazione. Quindi è stata una, praticamente la prima bevanda inventata dall'uomo. Quindi possiamo dire sì che è una bevanda del Mediterraneo. E cosa è successo allora nell'istoria per pensare? È successo? Probabilmente poi è passato dai Sumeri e gli Egiziani, ma probabilmente sembra che questo tipo di bevande sia stato inventato in diversi paesi e che poi sia stato importato in qualche modo, sia arrivato fino ai Celti e che se ne sono poi in qualche modo appropriati di questa invenzione. E poi si è sviluppata e, come si dice, espansa in tutta l'Europa. No, ma è probabile anche che magari quando è cominciata la produzione di vino nei paesi mediterranei questo è diventato più popolare rispetto alla birra, che invece era la bevanda più consumata nel nord, magari nel nord Europa. Potrebbe essere. Potrebbe. Ma probabilmente la materia prima della birra esiste un po' ovunque, mentre la materia prima per fare il vino esiste solo nei paesi certo, un po' più caldi. Quindi non so immaginare. Uh-huh. Mettiamo la canzoncina? Mettiamoci la canzoncina. Anche questo è il nuovo che avanza, ascoltate bene. Che prima siete stati un po' disattenti, non avete capito, non avete capito chi era, cosa faceva. Poi diciamo chi era uno e l'altro, va bene? Va bene. Quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. I colori dell'anima, siamo a lunedì 29 gennaio e invece di andare a fare i saldi siamo venuti in radio. Vabbè, tanto a quest'ora i negozi sono chiusi, comunque non potevamo. Da un pezzo che sono chiusi i negozi a quest'ora. Qua in Belgio sì, da un bel pezzo. Allora, Iñigo, ma sì, a te piace veramente la birra o preferisci il vino? Di la verità, tu che sei spagnolo. La birra per l'estate. Uh-huh. E il vino per l'inverno. Sì. Sì, anch'io un po' questa idea. Però qua in Belgio sono cambiata, nel senso che la birra si beve sempre, in tutte le stagioni. E va bene sì, anche d'inverno. Sì. Come dicevo prima, il fatto di essere amara non mi piace. Uh-huh. Dunque bevo la prima, la birra, perché è fredda, uh-huh, la prendo in estate. Uh-huh. Se no, non voglio creare polemica. Magari facciamo un'altra trasmissione sul vino. Magari, perché no, certo. Per no, però oggi ho scoperto che la birra è anche cultura mediterranea, dunque uh-huh, forse uh-huh, dovrei... Forse la assaggerai con un'altra sì, considerarla come qualcosa di propria anche. Se non altro aprirai il menù delle birrerie e cercherai di capire come facciamo tutti, che differenza c'è fra l'una e l'altra. Però comunque, oggi, come ho detto prima, siccome con il gin tonic, mi metto nervoso quando mi chiedono che birra vuoi, comincio a sudare, non so cosa dire. Allora, abbiamo ancora alcune cose sulla birra, che appunto è stato l'argomento di questa sera ai colori dell'anima, però prima di completare questo argomento volevo darvi una ricetta. Si chiama birramisù. Bellissimo. Birramisù. Quindi è un tiramisù con la birra, no? Si era capito, giusto? Allora, per questa ricetta birra misù ci vogliono 300 ml di panna fresca liquida, 60 g di mascarpone, 12 savoiardi, cacao amaro, quanto basta. Poi c'è per lo zabaione 60 ml di birra, 6 tuorli e 120 g di zucchero. E il liquido poi, dove verranno bagnati invece i savoiardi, è fatto con 200 ml di caffè, 50 g di zucchero, 200 ml di birra. Allora, come si prepara questo birra misù? Dunque, intanto si comincia con il preparare la parte liquida, quella dove si bagneranno i savoiardi, perché poi si deve raffreddare. E come si fa? Si mette sul fuoco un pentolino con la birra, si aggiunge lo zucchero, che quindi si farà sciogliere completamente, e quando è sciolto lo zucchero si aggiunge il caffè. A questo punto quindi il pentolino si lascia, si fa scaldare ancora un pochino perché deve evaporare l'alcol, e poi si mette da parte. E quindi si prepara poi la crema. Allora si fa, viene montata la panna e viene aggiunta al mascarpone che è stato ammorbidito precedentemente, quindi mascarpone e panna che vengono mescolati. Questa è una parte, e poi bisogna fare anche lo zabaione, anche questo alla birra. Quindi si prendono i tuorli con lo zucchero, quindi si fa la cremina solita, e quando la cremina è diventata chiara, ben amalgamata, si aggiunge la birra e si tiene a temperatura ambiente. Dopodiché, una cosa che comunque non riguarda solo il birra misù, ma tutte le ricette, si può pastorizzare, cioè cercare di eliminare potenziali batteri, mettendo questa cremina che si è fatta a bagnomaria per qualche minuto, perché in questo modo l'uovo, che è crudo, viene fatto scaldare alla temperatura del bagnomaria, quindi per 10-15 minuti, naturalmente girando. Una volta che questa crema è stata pastorizzata, quindi si toglie dal bagnomaria, si aggiunge il composto che era stato fatto in precedenza con panna e mascarpone, e quindi si ottiene questa crema unica. A questo punto quindi non basta fare altro che prendere i savoiardi, bagnarli nel liquido dove c'erano quindi birra e caffè, metterli o in un recipiente grande o in tanti bicchieri, magari forme diciamo singole, aggiungere la crema e di nuovo fare un altro strato di biscotti di savoiardi e di crema. E questo era il birra misù, quindi non so com'è, ma è da provare. Da provare, cioè tu intanto tu preparalo, poi noi veniamo a mangiare. Anche qui non so che birra ci vuole. Ah, non è spiegato nella ricetta. No, ma una birra bionda normale, una birra basic. Vabbè, allora, no, prima di ridarti la parola, Anna Maria, volevo solo aggiungere appunto che l'abbiamo già detto prima, però è bene ribadirlo, che quindi quando parliamo di bevande alcoliche dobbiamo sempre dire che vanno consumate in modo moderato. Quindi chiaramente non parliamo del bere eccessivo, del bere che fa ubriacare, questo proprio non esiste. Oltretutto poi una persona ubriaca, che quindi vuol dire che non è più se stessa, mi chiedo che senso ha, però vabbè, lo sa lui o lo sa lei. E ad ogni modo, appunto, a proposito di questo argomento, ho partecipato a novembre ad un convegno che c'è stato al Parlamento europeo, dove appunto si parlava degli effetti benefici dell'uso moderato di alcol, che appunto viene rappresentato proprio da una curva, per cui se uno beve uno, massimo due bicchieri al giorno di vino o di birra, perché appunto poi non è che può bere due di birra e l'altro. No. Noi speravamo il lunedì. Uno, due, però, o dell'uno. Cinque frutti, due bicchieri di birra, due bicchieri di vino. Cosa hai fatto? Mangiare per la salute. Certo, no. Certo. Quindi una quantità moderata riduce il rischio, quindi riduce il rischio non solo di malattie cardiovascolari, per esempio riduce il rischio di infarto, eccetera, ma anche di alcune forme di tumore. Però appunto basta andare oltre queste quantità, che questa curva invece comincia a salire, cioè per dire che aumenta il rischio, e quindi il rischio associato appunto le malattie cardiovascolari associate, che vuol dire infarto del miocardio, vuol dire ictus, ma soprattutto anche varie forme di tumore. Quindi bisogna stare molto attenti. E poi ricordiamolo, chi beve non deve guidare. Assolutamente. Giusto? Qui in Belgio esistono il Bob e la Bobette, in Italia non so se hanno un nome, ma comunque insomma... va tenuto conto di questo, che chi appunto... Beh, in Italia sono molto più severi rispetto a qui, insomma, i controlli ce ne sono ogni anno. Di più? Sì, sì, sono, poi sono estremamente severi, ti ritirano proprio la patente se sei ubriaco. Quindi insomma, bevete la birra, ma se bevete non guidate. Se no, si prende la metro. Ci sono gli autobus, i tram, le metropolitane, ci sono anche i taxi. E ci sono anche quegli astemi, per fortuna che esistono anche gli astemi, e quindi possono guidare loro. E quindi tutti abbiamo un amico astemio. Se non ce l'abbiamo, ce lo dobbiamo trovare. Con patente, preferibilmente. Infatti. Vabbè. Non so, Anna Maria, se c'erano altre cose che volevi dire. Ma no, ero soltanto, mi aveva un poco incuriosito il discorso della spillatura, perché non sapevo neanche che ci fossero dei metodi differenti per spillare la birra. Io non lo sapevo, cioè, ma io ho imparato un sacco di cose stasera. Anch'io. Anche tu? No, però il buon barman è quello che fa la... La spillatura. La spillatura venne. Spillatura venne, ma quale? Perché qui mi dico, c'è scritto che c'è la tecnica belga, la tecnica inglese e la tecnica tedesca. Addirittura, mi sembra abbastanza complesso, perché la tecnica belga dice che si deve riempire velocemente il bicchiere e tagliare la schiuma in eccesso con una spatola, prima di immergere il bicchiere in acqua per pulirne le pareti esterne. Poi la tecnica inglese dice... Prevede di aprire il rubinetto prima di inclinare il bicchiere e in questo modo il bicchiere si riempie senza formare la schiuma. Poi la tecnica tedesca prevede di spillare una piccola quantità di birra e aspettare finché la schiuma non diminuisce. Si ripete quindi nuovamente l'operazione. Infine viene dato ancora un colpo vigoroso per servire la birra con un cappello di schiuma. Perché il cappello di schiuma... che viene a formarsi durante la spillatura, serve soprattutto a preservare la birra stessa dall'aria, evitandone l'ossidazione e la conseguente alterazione organolettica del prodotto. Ma guarda. Per quelli che non bevono in fretta, io direi. Ma comunque, è vero, no? A me, se uno mi dà un bicchiere di birra, con la schiuma mi piace di più. Cioè, mi piace vedere questi 2 centimetri di schiuma sopra. Secondo me è anche un effetto visivo bello. È vero, sì. È più bella la birra con un po' di schiumetta. È come se non ci fosse la schiuma, mi fa pensare che la birra, non è un termine italiano, è sfiammata. Cioè, come se avesse perso tutta la sbombata. Invece questa bella schiuma mi dà l'idea che è bella fresca, che... È una birra appena aperta, quindi mi piace. E se non vogliamo essere molto puristi, la birra con limone, la birra con granadine. Ah, mamma mia, con la ciliegia, con le fragole. Sì. Tutti puristi? I podisti? Sì. I puristi? Ah, i puristi. Non sentitevi, vi prego. No, comunque, però... oggi ho scoperto, perché avevo comprato alcune birre, non per la trasmissione naturalmente, ma così perché mi piace averne un po' a casa, che in alcune etichette, in particolare un'etichetta di un tipo di birra che ho comprato, c'è scritto low carb beer. Non so se l'avete mai letto, low carb. No. Che vuol dire che è una bassa, diciamo, ha meno calorie, una bassa incidenza di, non so se c'ha meno carboidrati, ma comunque ha meno calorie di una birra normale. Però, detto questo, comunque la birra è una bevanda calorica, cioè sì. Rispetto al vino è più calorica. Le bevande proprio che non sono quasi caloriche per niente sono lo champagne, il whisky, tutte queste bevande molto anche costose. Il vino però rispetto... Il whisky non ha calorie? No, non ha calorie, nel senso che ha alcol, ma non calorie. Le calorie probabilmente per la presenza di zuccheri, diciamo, di... Ah. E quindi si può bere tanto whisky, no, ovviamente. Non bevete whisky, o se lo bevete, bevetelo anche quello con molta moderazione, molta moderazione. No, ma per dire che bisogna fare attenzione a questo, e però appunto era la prima volta che notavo questa, diciamo, dicitura su una etichetta low carb, tanto è vero che non ne sapevo il significato, però appunto è legato alle calorie. Quindi se siamo a dieta... Questo è arrivato anche alle birre. Arrivato anche alle birre, perché poi ho visto appunto su un sito che per dire il vino, cioè il whisky, lo champagne, hanno uno, diciamo così, come di queste calorie, cioè un punteggio, il vino 2 e la birra 13 o anche di più, quindi c'è una bella differenza in termini di calorie. Quindi per chi è a dieta naturalmente deve tener conto anche di questo, che probabilmente se deve scegliere magari un bicchiere di vino, probabilmente è meglio di un bicchiere di birra. Quindi, e la birra senza alcol? La birra senza alcol credo che abbia comunque questi... È un peccato mortale. Sì, è un peccato mortale. Acqua aromatizzata. È birra, è birra.